Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Di formazione nell'autotrasporto parliamo ormai da settimane, sulla scia dell'iniziativa avviata dall'Albo degli Autotrasportatori per avvicinare i giovani ad un mestiere ormai profondamente cambiato rispetto agli stereotipi e anche a certi pregiudizi. Oggi guidare un mezzo pesante richiede conoscenze tecniche specifiche e un costante aggiornamento delle normative, delle modalità operative e organizzative all'interno di un comparto, quello appunto della logistica, in continua evoluzione. Dopo la lettera d'intenti siglata a novembre, nei giorni scorsi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato firmato il protocollo d'intesa tra il Comitato Centrale dell'Albo, le associazioni di categoria, URAE, che è l'Unione Costruttori Esteri, e l'Associazione delle Autoscuole. In base a questa intesa, 1000 giovani saranno istradati verso il conseguimento della patente di guida professionale a costi agevolati e prenderanno parte a stage formativi direttamente nelle aziende. Il protocollo prevede anche lezioni teoriche e pratiche da impartire nelle scuole superiori per far conoscere ai ragazzi le caratteristiche dei veicoli, quindi come funzionano, quali equipaggiamenti la tecnologia ha messo a disposizione degli autotrasportatori. Il futuro prossimo sarà caratterizzato da mezzi a guida semi-autonoma o autonoma, con il fattore umano che resterà comunque sempre determinante nella gestione di questo processo. Su queste prospettive, su quelle del mercato dei mezzi pesanti dopo un 2016 caratterizzato da una netta ripresa, le immatricolazioni hanno fatto segnare un aumento superiore al 40%, abbiamo intervistato Franco Fenoglio, presidente della sezione veicoli industriali di Unrae. Camion che vanno da soli, mai li vedremo? Credo che li vedremo forse prima delle automobili, probabilmente non nelle strade, li vedremo in siti protetti quali miniere, quali posti pericolosi, perché la tecnologia è già pronta da subito, il problema chiaramente sono le normative e le infrastrutture, ma il camion credo che sia più avanti delle automobili. E poi c'è stata anche l'esperienza del platooning. Guida assistita che vede alcuni veicoli industriali uno dietro l'altro, che abbattono i consumi in maniera importante, limitano magari l'incidentalità, è sicuramente già una parte del futuro che è pronto per poter essere sulle strade nei prossimi anni. Raccontiamo tecnicamente come avviene questo platooning. Sì, c'è un primo veicolo dietro, poi con l'interconnettività ce ne sono altri due o tre, dipende dal tipo di cosa che si vuol fare, e chiaramente la guida viene fatta praticamente in modo autonomo, questo riduce i consumi, riduce, come dicevo prima, l'incidentalità e quindi molto positivo per quanto riguarda i costi di esercizio di un veicolo, ma anche per quanto riguarda la sostenibilità, perché meno consumi, meno consumo di CO2. Rivolgendo lo sguardo al mercato, il 2016 ha segnato un aumento a dir poco significativo delle immatricolazioni. Cosa vediamo nel 2017? Sì, dopo 8 anni di profonda crisi, quindi quando diciamo un grande balzo, naturalmente siamo pur sempre molto più bassi rispetto al 2008. Nel 2008 nel mercato dei pesanti si contavano 30.000 pezzi, abbiamo avuto un 2014 a 9.000, quest'anno siamo intorno ai 16-17.000, 2016 quindi molto buono, siamo tutti direi soddisfatti. Un po' meno positivo lo vediamo nel 2017, nel senso che sicuramente le opportunità di poter andare avanti ci sono, perché il parco circolante, come dico sempre io, è il più vecchio e obsoleto d'Europa, quindi la possibilità di crescita c'è, dipenderà dalla situazione, diciamo, politica del nostro paese. Stabilità, strutturalità vuol dire crescita, non stabilità, non strutturalità vuol dire nostri trasportatori che pensano a cosa fare nel futuro e quindi sicuramente bloccano gli acquisti. Dal 1 gennaio sono stati aggiornati i pedaggi autostradali. L'aumento medio non supera l'1%, per la precisione si assesta sul più 0,77%, anche se, come dicevamo già lunedì scorso, l'elenco reso noto dal Ministero presenta differenze significative tra le varie tratte autostradali. Va detto anche che per altre il ritocco scatterà nelle prossime settimane. Contro il periodico aggiornamento dei pedaggi, peraltro previsto dalle convenzioni stipulate ormai 10 anni fa, si sono espresse le associazioni dei consumatori e anche l'autotrasporto. Al nostro microfono il presidente di FIAP, la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, Massimo Bagnoli. Un aumento che dobbiamo registrare in un periodo di deflazione, quindi se è vero che c'è una norma che dice che la parte fissa dovrebbe essere lo 0,70, il 70% dell'inflazione, quando un'inflazione non esiste il 70% di meno 1 è 0, È lo solito refrain, andare nelle tasche di chi lavora in un momento complicato, e queste cose qui frenano comunque la ripresa del paese. Ma più direttamente, in questo momento come incide su un'azienda di autotrasporti l'aumento dei pedaggi? Sentiamo ancora Bagnoli di Fiat. È un ulteriore aggravio di costi che quest'anno vedrà, tra le altre cose, oltre questo, quello che loro richiamano ritocco, però il ritocco bisogna vedere quali sono le tratte che percorri, perché anche l'aumento viene fatto in una maniera lunare, no? Perché lo 0,77% che dicono che aumenta sulla base di veicoli chilometri che si prevede che siano percorsi, quindi è un aggravio che si andrà ad aggiungere al rinnovo del contratto di lavoro che ormai è addirittura d'arrivo e al gasolio che sta tornando a livelli preoccupanti. Prima eravamo preoccupati perché era basso, adesso siamo preoccupati perché era alto, però per l'autotrasporto sicuramente non sarà un 2017 favorevole dal punto di vista dei costi. E restiamo sulle strade, ricorderete la tragedia del 28 ottobre in provincia di Lecco, quando un cavalcavia crollò al passaggio di un trasporto eccezionale, provocando la morte di un automobilista. L'incidente ha portato alla ribalta, da una parte, la questione dei trasporti eccezionali regolata da una normativa che si presta ad interpretazioni non univoche, dall'altra lo stato delle infrastrutture e i controlli per accertarne la stabilità. In seguito al crollo di quel cavalcavia, alcune amministrazioni hanno adottato misure, diciamo così, restrittive. In particolare in Lombardia ci sono province e comuni che vincolano il rinnovo delle autorizzazioni periodiche alla presentazione di relazioni sulla sicurezza di ponti e cavalcavia da parte delle stesse imprese di autotrasporto. Insorge Conftrasporto, secondo la quale questa fase di stallo genera pesanti ricadute non solo sulle aziende di trasporto, ma anche a carico dei committenti. Il presidente Paolo Uge ha chiesto un incontro urgente al Ministero. E sempre in tema di trasporti eccezionali, la situazione è difficile anche nelle Marche, dove dall'inizio dell'anno sono numerosi carichi fermi nei piazzali in attesa dell'autorizzazione a muoversi. Autorizzazione che fino al 31 dicembre spettava alle province, ora con il passaggio delle competenze ad ANAS non ne hanno più la titolarità. Allo stesso tempo ANAS non ha ancora preso in carico le strade. Insomma, un groviglio burocratico tipicamente italiano. Per dipanarlo, Confartigianato Trasporti ha chiesto l'intervento dei prefetti. Un salto ora in Austria, dove per le imprese straniere che compiono trasporti con origine o destinazione all'interno dei confini nazionali o effettuano servizi di cabotaggio, è scattato l'obbligo di dichiarare che la retribuzione degli autisti non è inferiore a quella prevista dai contratti vigenti in Austria. La comunicazione digitale deve comprendere i nomi dei dipendenti soggetti al distacco internazionale, il periodo in cui viene svolta l'attività e l'indicazione di un referente a disposizione delle autorità austriache. Il provvedimento è inserito negli interventi di contrasto al fenomeno del cosiddetto dumping sociale. Dalle strade ai binari e torniamo in Italia. Per favorire il rilancio del trasporto di merci via ferrovia e quindi dare un effettivo impulso all'intermodalità, è nata Merci Italia. L'obiettivo è aumentare di 6 volte la quota di merci trasportate sui binari, quindi passare dal 5 al 30%. In questa direzione va anche il ferro bonus, cioè l'incentivo a favore dell'intermodalità gomma-ferro, che a novembre, dopo un iter durato mesi, ha ricevuto il via libera da Bruxelles. Al nostro microfono l'amministratore delegato di Ferrovie, Renato Mazzoncini. È un'operazione per noi importantissima, è il rilancio di tutto il comparto merci. Unifichiamo sotto una unica subholding tutti i lavoratori del comparto, circa 4.000 lavoratori. È molti anni che non si investe anche in ferrovia. Abbiamo lanciato investimenti per 1,5 miliardi di euro, 1,1 miliardi sui locomotive e carri che sono molto importanti, ma anche sui terminali, 300 milioni sui terminali, 100 milioni sulle tecnologie, perché bisogna anche essere in grado di offrire tecnologia all'altezza, no? Oggi se uno viaggia con DHL o TNT sa ogni secondo dov'è la sua merce, sa il tracking. Noi dobbiamo dotarci di strumenti simili. Quindi è una grande operazione. Sotto Merci Italia ci saranno le varie società operative: Merci Italia Rail per la trazione, Merci Italia Logistic per la logistica, Merci Italia Termina per la gestione di Termina. Tutti i lavoratori staranno sotto questo unico ombrello, anche perché si sentano parte di un progetto veramente importante per il paese. Oggi con hashtag Autotrasporti mi fermo qui, grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 13.45, come sempre in coda ad effetto giorno, da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.